La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati alla prima volta, diamo subito il benvenuto all'ospite di questa sera, Maria Ollari, buonasera. Buonasera. Infermiera, professionista, sociologa, ma anche giornalista, tante storie da raccontare, ma una in particolare che ha deciso di mettere nero su bianco in un libro davvero molto intenso dal titolo Burundi, la terra del dolore e del silenzio. Apparentemente un testo di analisi di un paese ancora oggi devastato da scontri e instabilità, sono però storie in prima persona che partono proprio da un amore, una storia d'amore personale. Allora, Maria Ollari, partiamo proprio da qui. Da cosa nasce l'esigenza di scrivere questo libro? Inizialmente la scrittura per me è stato un modo per elaborare le forti emozioni che stavo vivendo e che ho vissuto in questo paese. E poi a un certo punto mi sono resa conto che prendevano forma questi scritti e che potevano diventare un mezzo di informazione, di conoscenza di quello che stava avvenendo in questo piccolo paese africano. E quindi ho poi pensato di fare una composizione di tutti gli eventi ed è nato il libro. Lei nel libro fa proprio riferimento al sentimento che la legava anche a un burundese. A me ha molto interessato questo aspetto, che tra l'altro è stato anche molto sottolineato nell'introduzione che è stata fatta da Marco De Rey, un sociologo, perché proprio cambia la prospettiva dell'avvicinarsi alla Burundi, cioè non è la donna occidentale che va a dare soccorso, ma è una donna che entra in questo paese, se ne innamora, si innamora di una persona, crea un legame, una rete di amicizie. Queste sono cose che restano molto durante la lettura. Pensi, io sono arrivata in Burundi, avevo 20 anni, nel 76, quindi sono passati quasi 50 anni. Arrivata molto giovane, da un contesto, se vuole, parrocchiale, post-sessantottino, molto idealista. Arrivo in questo paese e mi trovo di fronte a una realtà, fra l'altro, molto accogliente, dove mi sono sentita subito molto bene, ma dove c'erano tantissimi punti interrogativi. Ho avuto la fortuna, io la chiamo fortuna, nonostante poi si sia rivelata veramente una storia molto faticosa e dolorosa, di incontrare Jean-Marie, che mi ha aiutato moltissimo a comprendere ciò che stavo vivendo. Come dico nel libro, non è stato difficile innamorarsi di una persona che era talmente innamorata del suo paese e della sua storia. E Jean-Marie chiaramente poi fa un percorso di partecipazione politica all'interno del paese, sino a diventare ministro. Questo è uno dei passaggi chiave, diciamo che è forse una delle aperture più forti leggendo il libro, cioè quando si entra proprio nel paese attraverso questa figura, Jean-Marie Gendahayo, giusto? Gendahayo, sì. Lui con degli amici hanno cominciato a lavorare per la Lega dei diritti dell'uomo e pian piano hanno cominciato a rincorrere il sogno democratico e ci sono riusciti, perché le prime elezioni democratiche che si sono avute in Burundi sono state proprio sono avvenute per questa forza e per questo desiderio di questo gruppo di persone che sognava, che aveva questo sogno per il proprio paese. E la storia d'amore, diciamo, tra voi due resta in qualche modo periferica rispetto a tutto il resto, o ha un ruolo fondamentale poi anche per il percorso che farà Jean-Marie? Io penso che quando si parla di amore, l'amore è qualcosa di universale, è qualcosa che può partire da due persone, ma che ha gli stessi connotati per quanto riguarda tutto ciò che si crede e gli ideali e i desideri. Per cui le cose si sono mischiate tantissimo, perché non c'è differenza quando si ama. Se si ama, se si cerca, se si impara ad amare veramente, fra una persona e ciò che è importante e che dà il senso alla vita. e quindi tutto questo si è mischiato profondamente, dove non c'era una delle due cose più importanti dell'altra. Resta però il fatto che lei attraverso questo legame vive in prima persona tutti i passaggi anche pericolosi, appunto, di questo governo che, come diceva lei, cerca di portare il paese fuori da una dittatura militare e portarlo a elezioni democratiche. Poi ci saranno diversi momenti di grande tensione in cui sarà in pericolo proprio Jean-Marie. Lei questo lo racconta molto bene nel libro e è questa la cosa che volevo dirle anche prima. Il libro diventa, e sono d'accordo con quanto scrive il sociologo Marco Del Rio nel testo introduttivo del suo libro, questo libro diventa un'occasione. È un'occasione perché la storia ci insegna, ha scritto, che i più grandi crimini sono resi possibili dai grandi silenzi, così molto di quel che succederà dipenderà dall'attenzione e dalla reazione della comunità internazionale. Lei questo silenzio lo ha rotto in una maniera veramente diversa. Lei ha scritto un articolo in cui lei è in prima persona all'interno di questa storia ed è una rottura fortissima di questo silenzio che circonda l'Africa e il Burundi in particolare. Penso, ho sempre pensato e sono stata aiutata a pensare che ognuno di noi ha una parte in tutto questo, no? Una piccola parte, una piccolissima parte. Il problema è quanto ci riusciamo a giocarcela. Io le assicuro non è stato per niente facile, perché è facile raccontare di altri e terribilmente difficile raccontare di sé. Se questo può servire anche in piccolissima parte, no, a portare alla luce tutto quello che è l'universo di questo popolo, di questa sofferenza, di questa gente che, le dico sin da piccola, mi ha accolta e mi ha sempre aiutata, insegnandomi anche tante cose della vita. Senta, e qual è l'insegnamento più profondo che lei porta a casa rispetto proprio all'esperienza del Burundi? Poi ci addentreremo anche meglio proprio nei suoi continui ritorni in questa terra, ma se dovesse fare un punto e dire la cosa che mi ha fatto crescere di più, qual è? È stata la forza dell'unione delle persone quando credono profondamente a dei valori o ho dei sogni. Non ti lascia mai e anche nei momenti più disperati ti fa cogliere una luce di un piccolo spiraglio di possibilità che ti indica la strada. Non occorre essere dei grandi giganti dei propri sogni, come recitava una preghiera dei centri di recupero tossicodipendenza, ma neanche nani delle nostre paure. Io avevo solo questa carta da giocarmi e me la son giocata. Ma lei perché ha scelto di andare in Burundi? Cioè, qual è stata la ragione che l'ha spinta, a parte il contesto appunto degli anni 70, eccetera, cosa faceva una volta arrivata lì? Guardi, allora, tutto è iniziato perché abito in una zona dove ci sono i padri missionari saveriani che avevano le missioni in Burundi. E la mia scommessa, se vuole, posso pensare tuttina, era quello di dire: sono cattolica, credo, ma cosa sto facendo per questo? E quindi allora ero infermiera e ho detto: vado a vedere se cosa riesco a combinare, qual è la mia piccola parte. Il Burundi è stato un caso. E se la ricorda la prima volta che è arrivata in Burundi, cioè com'è andata? Ma ero, avevo queste forti emozioni del sapere. Allora non c'era possibilità di grandi comunicazioni, no? Per telefonare occorrevano 4 ore, le lettere arrivavano dopo un mese e mezzo, eccetera. E avevo davanti 3 anni senza la possibilità di tornare. Di fronte a questa terra che era piena di colori, piena di odori, piena di relazioni così attente, relazioni molto rispettose. Il popolo burundese è un popolo che si pone in maniera molto elegante, molto rispettosa, e ne sono rimasta chiaramente, sa, da ragazzina affascinata e interessata. Poi dopo invece sono tornata più volte nel periodo della guerra. Ne faccio un'altra domanda, poi ci dobbiamo fermare per qualche istante e ripartiamo subito dopo. Sì. La domanda che le volevo fare è come è andata a finire poi questa storia con Jean-Marie Ngendahayo? È molto complesso e molto intimo. Io ho cercato di spiegarlo, non c'è più bisogno, lui ha la sua vita in Burundi, ha la sua famiglia, non abbiamo più bisogno neanche di avere lunghe conversazioni, perché non c'è più problema di tempo e di spazio, come c'è sempre stato, di dolore e di sofferenza. Noi sappiamo che il nostro legame non si potrà mai, mai, mai distruggere. Allora adesso io la fermo per qualche istante, torniamo tra poco a parlare di Burundi con Maria Ollari, infermiera, professionista, sociologa che in Burundi, come avete sentito, ha vissuto per lungo tempo, ha lavorato e amato e che in qualche modo è stata capace di raccontare l'Africa senza quel pietismo tipico dei ricchi occidentali, una questione della quale ci si interroga tra le righe del suo libro Burundi, la terra del dolore e del silenzio. Torniamo dunque tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. Ben ritrovati dunque a questa puntata che ci porta in Africa, in un'Africa di fine secolo, possiamo dirlo, siamo attorno agli anni 90 quando Maria Ollari, infermiera, sociologa, giornalista, arriva nel paese, nel Burundi. La lega al paese una storia d'amore e poi anche tante amicizie. Ecco, signora Ollari, com'è? È arrivata in Burundi, ce l'ha spiegato, e volevo chiederle quali sono i ricordi più forti del ritorno in Italia, però rispetto allo stare per così tanto tempo in questo paese. Quando tornava cosa succedeva? Un disastro. Un disastro nel senso che ho fatto molta fatica, soprattutto la prima volta, a riadattarmi, perché in 3 anni senza ritorno avevo assunto modi, desideri e conversazioni completamente diverse dal mio mondo, completamente. È stato difficilissimo, mi ricordo ad esempio soprattutto della giornata, mi ricordo il mattino che mi sembrava talmente vuoto qua, talmente privo di significati. Ho fatto molta fatica a riprendere le amicizie. Perché in Africa com'era il mattino invece in Burundi? Il mattino è pieno di colori, pieno di rumori, di gente che si sveglia, si inizia a vivere, ma con una, se vuole, non coi visi cupi, come spesso vediamo qua, no? Ma con i sorrisi, con un'allegria, con la gioia del giorno. Fino a poi al tramonto, quando tutto si ferma, pian piano iniziano tutte le relazioni domestiche e c'è un rumore continuo, la musica, iniziano gli odori del cibo ed è effettivamente un senso di legame con la terra, con ciò che è essenziale, che subito appena rientrata non riuscivo a trovare. È stato difficile, molto difficile. Poi pian piano sono riuscita, poi un'altra cosa importante, qui c'era un rapporto con gli africani estremamente strano, no? Quasi di, erano cose rarissime, no? Cioè ciò che si vedeva in televisione era sempre relativo a un mondo di selvaggi, no? Quindi per me è una cosa completamente diversa. Io ho vissuto in un mondo invece di relazioni, di accoglienza, di valori, cioè completamente diverso. Le sembra che adesso invece siano cambiati gli atteggiamenti degli italiani? Guardi, io penso che tutti i mass media, le comunicazioni, il mondo nuovo della comunicazione chiaramente ha cambiato molti di questi atteggiamenti, anche se, le dico la verità, la cosa che più mi ha addolorato arrivando in Africa è stato l'atteggiamento coloniale spaventoso, cosa che io assolutamente nella mia piccola cittadina di provincia non avevo mai neanche immaginato, e questo atteggiamento coloniale purtroppo io vedo che c'è ancora, cioè è ancora molto presente, sia nelle persone che vanno per aiutare, sia nelle persone che vanno per interessi personali. Questo è stato veramente sconvolgente, e sempre questa sensazione che la diversità significhi necessariamente inferiore o superiore. Questo c'è ancora da parte dell'Occidente. Invece il Burundi com'è cambiato nel corso degli anni in cui lei lo ha frequentato? Se si pensa ad esempio alle cose pratiche, alle cose concrete, le case, la maggioranza delle case non sono più col tetto di paglia, Ecco, ci sono molte strade, c'è stata un'evoluzione del paese da un punto di vista delle strutture, insomma, si può dire che non è più come 50 anni fa, ovviamente. Il paese però poteva evolvere molto di più, i dolori che ha attraversato sono stati spaventosi, 30 anni di una dittatura, il sogno democratico, il capovolgimento al potere e ancora purtroppo l'impossibilità di uno Stato di diritto, dell'esistenza dell'opposizione che sta ancora opprimendo, adesso c'è l'embargo e quindi sta opprimendo la possibilità dei burundesi di un'evoluzione più rapida e di un benessere tanto insomma desiderato, ecco, soprattutto dalla popolazione povera. E lei cosa si aspetta, cosa spera per questo paese adesso? Guardi, io avevo fra le persone che ho incontrato una volta un burundese, mi ha detto, e questa cosa penso che la storia la possa confermare, che quando un popolo ha un sogno, il sogno democratico, un sogno di giustizia, di uno Stato di diritto, questo sogno può attraversare tantissimi momenti difficilissimi, ma non può morire. Io penso che il Burundi ha avuto qualcosa in più di altri paesi africani, anche di più del paese che del Ruanda, che è vicinissimo, che è quello di avere persone che effettivamente si sono impegnate, che hanno creduto e che credono che possa cambiare. E su questo, nonostante anche la situazione attuale, io penso che una volta imbroccata questa strada non si possa più tornare indietro. Senta, oggi come oggi lei che cosa fa? Fa la sociologa? A me ha molto colpito anche, oltre alla lettura del libro, anche il suo percorso di vita, cioè nasce come infermiera professionale, poi diventa sociologa, giornalista, si è aperta tantissime porte nel corso della sua vita. Oggi che cos'è Maria Ollari? Allora, guardi, io ho fatto l'infermiera perché in un tema alle elementari avevo scritto cosa farà, le solite domande, cosa farai da grande, io infermiera missionaria, no? Quindi ecco, però l'Africa mi ha fatto un grande regalo e anche Jean-Marie, ecco, mi hanno trasmesso la voglia di conoscere e di sapere cosa mi stava succedendo e per cui poi ho intrapreso gli studi di sociologia. Ho pensato anche di approfondire anche culturalmente quello che era la mia scelta personale religiosa cattolica e per anni ho insegnato anche religione cattolica. Quindi contemporaneamente il mestiere di formatrice. Queste esperienze di vita mi hanno messo in un cammino di riflessione, ovviamente fra l'altro accompagnata da persone veramente care che mi hanno aiutato tantissimo, come fra l'altro lei ha citato la persona che ha introdotto il libro, il dottor Marco De Rio. Adesso sono in pensione, sto cercando di proseguire la strada che ho sempre fatto, cioè da quel che mi accade ci metto quello che penso sia il più possibile che posso fare e non penso ci siano molte differenze, sa, fra essere dentro una grande storia o una piccola storia, perché nella mia provincia di Parma la democrazia è difficilissima da conservare e da perpetuare, che sia un ambiente piccolo come quello di una scuola dove si insegna oppure nel mondo del volontariato dove io faccio formazione, è sempre tanto difficile, le assicuro. Io la ringrazio tantissimo per tutto il tempo che ci ha dedicato, noi ci dobbiamo fermare, l'appuntamento è a domenica prossima sempre alle 23, oppure potete riascoltare questa e altre puntate andando sul sito della Prima Volta, dentro il grande sito di Radio 24. Vi saluto a tutti e vi auguro un buon inizio di settimana.